Qua, già sono qua. E cosa? Non ho più sentito a cosa, come si chiama? Muros. Neanche io la verità l'ho più sentito. Né a lui né a Claudio, di Muros, il figlio. Boh. Non sono già divertito. No, Claudio già viene spesso in officina, quasi tutti i giorni passa, poi ci siamo sentiti poco fa a 5.25, diciamo ieri abbiamo fatto delle cose, delle prove, poi non è entrato, stava facendo altre cose. No, ho attivato l'imbara, sono contento perché io non ci credevo assolutamente, infatti pochi ci riescono a fare l'imbara da Sassari. Sembra di aver freddo, ci ha ripicato qualcosa all'imbara. Lo portate dentro l'ascensore e ci arrivi. Non esagerare, non faccio nome e cognome di persone molto molto più addentrate di me che non riescono a entrare, gente a vero, no? Di pupazzi. Ma lo sto dicendo, guarda che io quando abitavo in Felicedo addirittura visitavo il porto dentro, come si chiama, quello della forestale, figurati tu, tanto tempo fa, ti parlo quello della forestale, dentro al garage, dentro al coso, è un punto allucinante quello lì, molto meglio di questo qua, io qua sono tappato, perché sono dicendo, ti sto dicendo che la cosa, tutti i punti di città, tutti, come uno non citavo, mezzo vato, un vato, quello che era. No, Monterraso lo stesso lo prendo di bomba, pensavo di no, invece arriva fortissimo. Non parliamo della Corsica, mi sono spaventato quello di Aiaccio. Aiaccio è lontano, vabbè che è Monterraso, però è arrivato. Dimmi un po', ma l'antenna che hai tu su, che cos'è? Per le V o per le U, Antone? Tutti e due fa V e U, solo che in V non state andando, non so perché. In U invece sì, fa V e U. È acciaio quell'antenna lì, mi pesa quasi 3 kg e mezzo, una cosa del genere. Dove l'hai presa? Mi hanno regalata la verità, faceva 145 e poi 520, mi sembra una cosa del genere. Se non mi ricordo male, non vuol dire di stronzate. Ma tu dove l'hai orientata con l'antenna? Verso nord l'hai mandata? No, l'ho puntata a Monteoro, la verità. Prima vabbè c'avevo il motore della direttiva, cioè della direttiva, della parabola, e quindi la giravo con il motore della parabola. E quando puntavo verso Alghero, addirittura sentivo come si chiama i PMR delle imbarcazioni. Figurati tu. E di lì dovresti sparare, però io pensavo, ho detto forse per la Liguria, cosa del genere. No, io Liguria, Uia. E quella lì ci vuole una 20 elementi, ci vuole. Quella che adesso me la voglio prendere. Una 15-20 elementi, lì quelli più piccoline. Quella è a cazzo pesa troppo, cazzo è acciaio. Cazzo pesante, mi sta lavando qua, cazzo, il palo, le cose del genere, hai visto che è pigiato l'umano, col vento. Ma c'avevi il duplex, se tu, duplex se c'avevi per attivare le vuole U, o come facevi? No, niente. Allora come faccio a lavorare sulle vuole U con l'antenna? Ci lavora, perché l'ho provata, prima in V e poi in U, e funziona benissimo. E cosa volevo dire? Che marca è? Non me lo chiedo, a me, guarda, quando l'ho svolto te la faccio vedere, così la contiamo assieme, perché avevo già sistemato la porta con l'antenna lì, hai capito? Perché non usciva più, e quindi devo smontarla, scendere la terra e te la faccio vedere, adesso non mi ricordo che marca sia, già è un giorno che viene da sola quell'antenna, sarà 3 anni, forse 6, una cosa del genere. Quanti elementi è? 7-8 elementi in acciaio sono. Poi c'è un tubo cazzo centrale che è una cosa allucinante, cazzo. Grosso, ma tutto in acciaio, compreso anche i vitti, fatto in acciaio, io te la smonto e col cavo te la faccio vedere e te la porto in officina. Così la vedi. No, la vita cosa ci passo spesso davanti a dove abiti tu, a Vuglia, che si vede. No, pensavo fosse più 4 elementi, solo 7 elementi. La cosa già mi sembra che è 6-7 elementi, ma pesa mica cazzo quella terra, ti sto dicendo che è una cosa allucinante. Pesa. È fatta bene, è fatta veramente bene, è fatta. c'è un amico, quello che ho preso roba grossa, dai, roba radio con chilometro eccetera eccetera, mi ha dato anche un'antenna, roba professionale, dai. E ce li ha un po' di antenne per le V e le U, c'ha quelle in ottone, proprio professionali per uso marino, cioè le mettevano impostazioni navali e cose del genere, tutta in ottone, tu la vedi questa antenna, non so quanto pesa, però è tutta saldata, fatta bene, è una costruzione, è un'antenna, non so se sia tedesca, Katrin o che cosa sia, e poi me ne ha regalato una per macchina che fa da 100, la puoi accordare da 110 sino a, non mi ricordo a quanto arriva, a 170, è tipo una Turbo 2001, ma tu vedi la costruzione di questa antenna? No, la verità no, quella non la conosco, la verità. Però c'era, ho visto antenne, ce ne sono rimaste, mi sembra 6 o 7 la cosa, da Buonanima, hai capito? 15-20 elementi come ce l'aveva la cosa, un allevatore c'è che abitava qui, che poi adesso non abita più, perché va da lo cap, quindi è la UHF naturalmente, ho messo il motore in pratica, quello dell'antenna TV, e la girava così la girava. Chi è questo radiatore che è morto? Di chi sta parlando? Vabbè, Mario Coso. Mario, dai. Mario chi? La Letta. Ma perché vicino a te abitava? Allora sole abitava, poi c'era un animatore che abitava vicino a me e adesso non ci abita più, letto. Non perché sia morto, grazie a Dio è vivo. A quello gli è sceso l'antenna dopo la mia, figurati. Il giorno ha pensato la Mantova 5, lui si è pensato la Diamond, quella che costava un sacco di soldi. Ha fatto, gli è sceso 2 giorni prima della mia, della Mantova 5. Sì, ho capito. Come si chiama? Quell'altro, come si chiamava quello di via Civitavecchia che era bene un'antenna, l'amico tuo? Quello è morto. Ricordami il nome. Quello si chiama Mario Figine. Pure lui è morto, cacchio, quello c'aveva belle bestie, dico, c'aveva un'attività di costruzione di apparati professionali 8808, radio, bloccati. Tutto sotto sequestro, tutto lupettato, hai capito? Tutto sotto sequestro, non so quanti debiti c'abbia con lo Stato, adesso non so come finirà la cosa, è tutto quello che è fatto, ho visto invece Civitavecchia, i garage, il coso, l'appartamento, anche Santa Maria, tutto sotto sequestro, non si può toccare un cavolo, adesso vediamo un po', quando sapo qualcosa, se ci butteranno la roba, te lo dico e vieni e ti recuperi un po' di roba. Tanto io lo sai, so se la prende Tavoni o chi cazzo è, no? Sì, già lo so, sicuramente va a finire al macero quella roba di peccato. Io c'ero entrato tanti anni fa, e poi quando ero molto più giovane, quando avevamo una piccola radiolina di amici, e siccome lui era amico di un ingegnere che lavorava a Porto Torres, l'ingegnere elettronico della Petrolchimica che lavorava, e ce l'aveva tratto lui il piccolo trasmettitore, ma di quelli giocattolo, quelli che vendeva la GBC, pochi 3-4 watt aveva, ce l'aveva fatto, allora non era neanche quartato, tu vedi come dritava la frequenza. E poi c'era andato altre volte, ma c'era cose grosse, lui era il titolare della Cosmo Elettronica, facevano cose veramente professionali. E già lo so, infatti, già me lo ricordo, c'era anche trasmettitori per TV, di tutto, a parte le antenne da catena 18 carati, ce ne sono 6 di poli, buttate lì, a Santa Maria, se non si erano fregati, questo non lo so. Sì, lo so, c'aveva sopra una specie di soppalco, era pieno di roba, di dipoli, ne aveva poca cose veramente, poi vabbè, l'unico problema era che era molto disordinato, tutto buttato in terra, ne aveva poca, però c'avevano apparecchiature finali da 2 kW, 3 kW, finali per le stazioni radio, quando allora aveva un paio di kW, anche 10 kW c'aveva lui, era una cosa, pochissime televisioni, cioè le radio se lo potevano permettere di utilizzare quelle potenze. E poi c'aveva un analizzatore di spettro che costava allora più di 30 milioni, una cifra da paura, pochissime assassari che ce l'aveva. E c'erano quella di buttati, frequenzimetri, tutto ci ha buttato lì. quindi ma vediamo un po' che fine farà la roba. Gli ero informo, sono bene, non ci vado, visto che il vertepio è tutto lucchettato, quindi se è lucchettato il vertepio è lucchettato anche a Santa Maria, questo è poco ma sicuro. Siccome ho il lite da fratelli, cosa del genere, lui e l'altro sono morti, è rimasta la cognata e altri due, a parte ci sono, mi sembra sono 50.000 euro a pagare dell'Eren e in più altri 30-40.000 euro di acqua che non ho mai pagato in vita sua, quindi tutto sotto sequestro, si vedrà, lo metteranno là, sta cosa ne so. Cosa, Luca, rientrato? No, non è ancora rientrato. Spesso come mi piglio una mattina a limone, così me la beffo. E faccio una toccatura a pizza, c'ho una setta allucinante, cazzo, mi penso, come si chiama? Gli alici, mamma mia. Stazione 10? Antone? Sì, io sono rientrato. Vabbè, adesso vado a mangiare io, dai, ci sentiamo Antone. Ok, grazie della chiacchierata, breve, però dai, saluto anche gli eventuali amici qua, ascolto, ne è venuto a fame da mangiarmi qualche cosa. Ciao ciao! E ciao, buona cena, buon tutto. Mi sto prendendo la pizza perché non so, mi ha dato una pizza, mi sono messo gli alici sopra, di quelli pezzi di rospi, cazzo, che fanno bene acqua, cazzo, allucinata, l'acqua è sotto più per me. E devi tirare di mono perché lei non mi corico. E poi se ne parlerà domani. Mangiate poco, mi raccomando. Sì, ho mangiato. Buonasera. Buonasera a lei. Racconti, Luca. Diciamo quando è arrivato a casa, ero giù alla 25, sono appena rientrato. Con un po' di mal di testa, sono tutta la sera, da 9 del giorno, un po' mal di testa, poi sono la bustina, sì, un po' me l'ha calmato. Non posso andare avanti con queste bustine. Sono andata alla cervicale maledetta che ho, mi sta martoriando. Io ogni giorno, ogni santo giorno ho mal di testa. Anche io da ragazzo ne soffrivo parecchio, però poi all'improvviso mi è scomparsa e grazie a Dio adesso ormai sarà forse 10 anni, se non di più, non so cosa vuol dire il mal di testa praticamente. Solo che se prendo freddo, che cosa? Allora la schiena la senti un pochettino, capito? La cervicale, un po' il collo intirizzito, indolenzito, capito? E la schiena, e quindi anche lì me ne sto al caldo e non prendo niente di farmaci, capito? Però in passato già prendevo anch'io la nimesulide, l'aulin, quella roba là, capito? Gli antinfiammatori. Io prendo, ho preso anche Ovitask, però quelli purtroppo la dose è bassa e non mi ha fatto niente. Ho dovuto prendere quella più, la bustina più grande, e diciamo che un po' me l'ha passato, dai. Passato. E vieni dentro, Dea, vieni, è un casino, sì, ma la cervicale comunque, è la cervicale, non ce la pompugno poco fa, ce la pompugno e Roberto, io purtroppo sono dovuto scappare da là, boh, non c'è nessuno, pompugno ci sei? C'è già adesso, a dire la verità, è 5 minuti insomma, ho sentito solo te, forse sono andati a cenare. Ah, boh, sicuramente, vabbè, da, domani è 24, la vigilia di Natale, era ora, poi c'è Capodanno, io fuori dalle scatole, va, non dire altro. Ecco, bravo, tu la pensi come me allora, io non vedo l'ora che passino le feste sempre. Ah, oggi la metto di scatola, allora, oggi siamo usciti, no? A fare un po' di compra, mi sono comprato un po' di roba da vestire, ma c'era un traffico, poi con questo mal di testa che avevo, guarda, non capivo una mazza, ero stordito, mica è brutto mal di testa, vabbè, tutti i dolori sono molto mal di testa, mal di denti, tutti, non è che ce ne sia uno bello, No, questa mal di testa era micidiale, va. È come se mi avessi bevuto l'impossibile. Capito, e magari quando c'è umidità così devi cercare di riguardarti, magari o ti metti una cuffia, un berretto e che ne so, io per evitare lo stesso quando avevo i capelli, perché adesso ne ho due ciuffi, non uscivo mai con i capelli bagnati, capito? Perché tutte queste cosettine sembra così, fanno in modo che ti si scateni l'attacco di cervicale, capito? Infatti ci uscivo da ragazzino con i capelli bagnati, ma con freddo, mi uscivo da lavoro, la fretta di uscire con i capelli bagnati in moto, mi tutta c'è che all'epoca la casa non si usava neanche, perché c'è così, il viaggio sì. Vabbè, adesso sto prendendo le conseguenze. Sì, va bene, tu ne hai due ciuffi, io ne ho tre ciuffi, noi che ne abbiamo più di te. Vabbè, ce li ho io, là. Ma con un po' dietro, un po' davanti, così, ma già ne ho ancora capelli. Sono fini fini, ecco, e comunque sia, la cuffia la uso. Però mi dà fastidio. Io ci ho adesso comprato una nuova di cuffia. Lo stesso, io la mattina per il lavoro esco alle 4:30, perché alle 5 devo essere a lavoro, e ti posso dire che in queste scorse settimane c'erano 1 grado, 2 gradi e un'umidità tremenda, capito? E sembra così, come esci dalla macchina, esci già con la cuffia, ti ripara, perché ovviamente con la testa nuda, capito? Tu senti in capo, capito, il freddo. E insomma, già un po' ti riguarda, e questo l'abbigliamento pesante d'inverno, devi coprire collo e testa soprattutto, e cercare di non prendere freddo umido. No, vabbè, certo, anch'io quando ci esco presto, tipo quando vado in campagna, così capita che vado anche a fare le lumache, ci esco tipo alle 5, cappellino, oppure cuffietta no, perché una volta che ti metti in viaggio a piedi inizi a scaldarti, non c'è bisogno. Però già quando esco già me la metto la cuffietta, tipo domani sera farò un'uscita così, a berci qualche cosina, là, fare gli auguri. Un giretto da qualche parte andiamo, va. È sicuro che la cuffietta me la metto, forse poco ma sicuro. Magari me la metto quando andrò via da qualche locale, là. Oh, niente, io domani mattina lavoro sino alle 13, dopodomani lavoro fino a mezzogiorno, ma entro prima, e quindi praticamente il giorno di Natale lavoro, Santo Stefano invece sono di pomeriggio dalle 13:30 sino alle 21:30. Lunedì invece ce l'ho di riposo e poi ho altri 3 pomeriggi. E che bastardo, come lo fai? Io lavoro all'aeroporto e là non si chiude mai, capito, anche giorni di festa. Ah, per chi lavori? Che mansione hai? Ferie ne abbiamo, ma non ce ne danno perché siamo contati, capito? Perché adesso chi ha bambini piccoli si prende il congedo parentale, Natale, Santo Stefano, Capodanno, la Befana, capito? E tu che hai figli grandi, quindi non sei più in età di prenderti il congedo parentale, ti attacchi al tram, capito? No, non parlo di figli, ho detto che mansione hai all'aeroporto? Facciamo i controlli di sicurezza. Ah, ecco, capito. Beh, infatti arriva la figlia della mia compagna, lì da Fertiglia, sono sempre io a prenderla. E la gente comunque già sta partendo, comunque, anche se ci sono adesso nuovi casi di Covid, ho visto che per Natale c'è un bel po' di gente, soprattutto domani, che ci sono un sacco di voli. Ma mi hanno detto che la Fertiglia però inverno pochi voli, tipo non so se, mi sa che non c'è, perché è venuta la Olbia, ha fatto Verona Olbia. Sì, perché da Olbia c'è qualche volo diverso, capito, secondo da dove vi, cioè Alghero ha solo collegamenti con Milano Linate, Milano Malpensa, Pisa, Roma, Bologna, Bergamo, Orio al Serio ovviamente, e poi c'è a qualche destinazione tipo Bruxelles, Charleroi, Francoforte, adesso per Natale forse qualcosina mettono, però stanno, mi sa, pian piano richiudendo tutto, e c'è anche qualche volo per la Polonia e anche quelli sono tutti pieni, insomma Madrid qualcuno già si muove. Boh, a me non ho detto che c'erano pochi voli da Fertilia, pochi, quasi niente, tu non lo so, guarda, non ho detto, ma lo ti dico. Ma se mi stai confermando tu che lavori lì, lo sai più tu. Tu sei proprio dentro l'aeroporto, non sei nel porto, cioè dove ci sono gli aerei. Noi facciamo la sicurezza, quindi a volte sono al controllo passeggeri, a volte sono al controllo del bagaglio da stiva, a volte facciamo il controllo della perimetrale con la macchina, oppure se in servizio da altre parti, tipo il varco carraio o la videosorveglianza, dipende da che giorno. Sì, cioè ogni giorno ci abbiamo un servizio più o meno diverso, capito? E dai, non è pesante, dai. Non è pesante fisicamente ma mentalmente. No, diciamo fisicamente non è per niente pesante, lo faresti tranquillamente anche a sino a 80 anni come lavoro. Il problema è sono le alzatacce la mattina, perché noi iniziamo presto, perché o devi accendere i macchinari o insomma, e quindi alle 5 dobbiamo essere operativi, il primo volo parte alle 7, quindi devi essere aperto 2 ore prima. Ah, ecco, vabbè, poi ti fare sassari fertili, vabbè, sono 30 km circa, no? No, nemmeno, Sassari aeroporto sono 24 km, praticamente la mattina quando esco io presto, non trovi semafori, non trovi niente, alle 5:30 esco, parto da sotto casa, alle 5:10 sono ai parcheggi dell'aeroporto, 20 minuti andando a 100 e 90 a 100, non di più. E a chi avanti? Buonasera. Qui a Pomponi, un attimino di bianco per me che vado, sistemo bene il cane, mi porto l'acqua in camera perché intanto ce la cerca la notte, riprendi o Carlo, vieni, intanto Pomponio. Ciao Antone, come va? Bene Carlo, tu? Tutto a posto, sì. Ciao, sono Antone anche a Luca comunque. A proposito, mi stavo cercando mia piazza natalina, il numero di telefono tuo. Ma io in pratica non lo sono memorizzato nel telefonino. Quindi, vabbè, quando ci vediamo, se non mi date il GSI, ci facciamo gli auguri, se non deve lavorare, così almeno poi io spedisco il numero di telefono tuo a Parino, via WhatsApp, via Messenger, quello che è. Aspetta che sto guardando se ti trovo nella rubrica, perché io mi sa che il tuo me l'avevo memorizzato. Allora, rubrica, vediamo un po', Antonello, ecco ti conto. Perché io non l'ho memorizzato. Adesso ti arriva la mia mamma. Quando mi ha chiesto il numero di telefono, stavo cercando, siccome ho 2 telefoni, già lo sai, ha un telefono all'altro, sono riuscito di capo, sono uscito. Sta squillando. Aspetta un secondo. Memorizzatelo questo numero e poi te lo salvi su WhatsApp. E aspetta un secondo. Antone, mandagli, guarda che te l'ho mandato su WhatsApp anche. Fermami se ti è arrivato. Aspetta un secondo. Eccomi qua, che è? Sì, è arrivato WhatsApp, adesso glielo mando a Natalino, aspetta. Ti stavo mettendo a caricare power bank di mia figlia. Sempre ce la scarico questo cellulare, ohia, questi figli. A Napoli dice questi figli sono pezzegole. Davvero. Adesso dimmi tu, ci devo uscire alle 11:30 a accompagnarla adesso. Cavolo, a quest'ora? E c'hanno il ballo della scuola, capito? Su in via Milano, e poi la riaccompagna il padre di un'altra sua compagna, io le porto e poi le riporta l'altra, perché gli altri io poi me ne vado a letto. Vabbè, stirate presto. Meno male che adesso è già uscito il nuovo decreto, mi sa che chiudono di nuovo tutto. Mi sa di sì. Troppi aumenti ci sono, troppi casi, perché la gente troppa libertà. troppa libertà è un casino. C'è un attimo. Antonio, hai mandato gli elai? Aspetta, sto diventando un po' esaurito perché da un telefono dato è differente, capito? Devo mandare su WhatsApp 2 secondi, aspetta, ti vedo online. Adesso. Aspetta 2 secondi che glielo mando. Ah, già sono qua tanto. Allora stai facendo orario, caro? Luca, ripeti che mi ero spostato. Ho detto, allora stai facendo orario? Sì, perché sono le 10 adesso, quindi mi tocca aspettare almeno un'altra oretta. Poi l'accompagno e mi ci strappo al letto. Sei costretto. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Questi ragazzi di oggi. Le cose che facevamo noi, perlomeno, vabbè, io sono veloce, 47 anni, tu ne avrai qualcuno di più di me. Non ne ho 10 più di te, Luca. Sì, e sei del 64. Signore. Beh, che mi ricordi io, ma poi la discoteca avevo con mia zia, ma non è posto per me. E tuttora non mi piace, non me ne frega, a me va questa musica alta. Ui, per carità, guarda. Già ci andavo da ragazzo, ma erano anche altri tempi e le discoteche allora erano quasi una novità, quindi quando andavo in discoteca era il massimo, il fine settimana, soprattutto il sabato, facevamo sempre le ore piccole, ma già era anche un divertimento e per carità. Poi la cosa è un po' degenerata, un pochettino, perché sono creati ambienti troppo, diciamo, poco raccomandabili e risse, questo e quell'altro, allora poi non ne ho voluto più sentire neanche per scherzo andare in discoteca. Ma poi la gente non va più a divertirsi, no? Va a cercare il risse. Allora, cioè uno va alla nostra età, si cerca un posto tranquillo, vai, mangi, bevi, ti fai la chiacchierata e poi te ne rientri a casa, cosa devi fare? E si conferma, è giusto sia così. Uno va e si beve una cosettina, si mangia una pizza, un panino, quello che è, un piatto composto, si fa 2 chiacchiere, ma se c'è un po' di musica, si ascolta un po' di musica e poi finito se ne va a casa. Perché poi se vai nei posti c'è sempre quello che rompe le palline, là. Di quello ne trovi più di uno, perché poi c'è gente che beve, capito? E la gente quando beve poi è ingestibile, capito? Trovi quello un po' pazzeriello, attaccabrighe, parte la rissa in un niente. Ripeto, la gente va solo ed esclusivamente a rompere le scatole. Magari ti dice ne spara una e tu e poi se problemi hai, magari scatta la rissa. Proprio così. Adesso ho mandato il mio numero perché lo dovevo passare a Natalino, che non ce l'ha, no, perché parlando per radio ho scoperto che lui è anche un mio parente, però non aveva neanche il mio numero, capito? E quindi ho detto guarda che ce l'ha Antonello, invece Antonello il mio l'aveva perso, adesso gliel'ho passato e quindi Antonello glielo sta mandando su WhatsApp, capito? Ah, se ne prende un Natalino? Sì, io ho scoperto che lui di cognome faceva come mia nonna. E a un certo punto gli ho detto guarda mia nonna abitava lì e là eccetera, Sassari vecchio eccetera, e lui la conosceva, capito? Dice lo sai che siamo parenti? Io ho detto sì, io adesso ho capito, io me lo ricordo pure da giovane lui. Magari se di vista sicuramente gli anni passano, poi un po' te ne dimentichi. No vabbè, noi però ormai ci conosciamo tutti qua, bene o male ci conosciamo tutti di persona. Ma io sino diciamo ai 28 anni prima di sposarmi non vivevo a Sassari, capito? Io sono di Bonorva, sono nato là e ho vissuto lì sino a 26-28 anni, capito? Poi quando mi sono sposato sono venuto a vivere a Sassari. Tua moglie di Sassari, sì? Anche mia moglie e voi dei paesi cui, anche lei è di Bonorva. Ah, ecco, hai deciso di venire a Sassari ad abitare, ho capito. Vabbè, lo capisci sassarese, sì. mia madre era sassarese, mia nonna idem, e mio padre era di Bonorra, però, capito? E per quello che sono un po' sassarese e un po' bonorrese. Vabbè, non è molto lontano Bonorra d'acqua. Sono 50 km, mezz'ora di macchina, tutto su per strada, capito? Adesso c'è qualche rallentamento perché stanno facendo lo svincolo nuovo, se no in mezz'ora, 25 minuti sei a Bonorra, anche se ormai si è spopolato, capito, come paese, è malapena farà 3.500 abitanti adesso. In passato, quando ero ragazzo io che ci vivevo, c'erano 6.000 abitanti, c'era il liceo classico, c'era la scuola agraria, insomma era grosso come centro. Adesso ormai è dimezzato. È tipo la Sassariulda, che è brutta, mamma mia. Per carità, ancora non hanno finito. Ma è casino. Qua invece lo svincolo nuovo di Bonorra hanno iniziato meno di un anno, ma sono a buon punto, stanno lavorando, il cantiere è partito e evidentemente ci sono i soldi e ho visto che stanno procedendo. Poi in aggiunta a quello è che c'è stata una frana di un pezzo della 131 lì proprio sulla salita di Bonorra e quindi anche lì hanno aperto un altro cantiere adesso perché stanno rinforzando tutto il sottostrada, capito, che era franato. Era formata una crepa perché sotto stava scivolando tutto nella vallata, capito? Quindi lì adesso hanno fatto dei muri di contenimento in cemento armato, stanno riempendo e io penso che per la primavera, intorno al massimo a maggio, che dovrebbero anche finire. Ne dubito. Vabbè, ci può stare qualche intoppo, però strano ma vero, stanno procedendo abbastanza veloci un sacco di macchinari e deve essere qualche azienda grossa che ha preso i lavori, perché quando passi vedi tutti ruspe, camion, tutti in movimento, capito? Io non è che ci vado più come prima, c'ho ancora mia suocera che ha 90 anni e quindi qualche fine settimana ci vado quando non sono in turno, se no ci va mia moglie, capito? Solo per quello andiamo. E poi però io lavoro ad Alghero, mia moglie lavora a Sassari ormai 30 anni e passa che siamo qua. Oh, ho mandato il messaggio a cosa, notario, su WhatsApp e con l'altro telefono, tutto a posto. Grazie Antone, perché l'altro giorno uno stava chiedendo, ho detto per non darlo via radio, ho detto già te lo manda Antonello che ce l'ha il mio, invece tu magari non l'avevi salvato, ma adesso salvatelo su WhatsApp, anche a volte può servire anche su WhatsApp, capito? L'ho mandato nell'altro telefono, sai che ne ho due io, c'ho l'F10 e l'altro. Io ho due di LC, quindi nell'uno non ho salvato niente, cioè non si è salvato niente, nell'altro invece sì. L'ho salvato nell'altro e io addirittura mandato, quindi siamo a posto. A me c'è il numero 3 tuo e quando vuole ti chiama, non c'è problema. Siamo a posto. Come sto uscendo con questo apparecchio di radio? Tanto, bene. Perfetto, sì. Guarda, questo è voce chiarissima, una radio 5 perfetta, il segnale è ovviamente al massimo. Cosa ti devo dire? Già va bene, sì, questo va bene. Pure così me l'ho mai sentito, benissimo. Lo so, me lo stavo dicendo tutti. Tanto bene, dicevo fare la cazzata di vederti l'apparecchio, mi ha fatto che dice altre 3 volte, mi ha detto. Quindi se sta riprendendo a questo, a quello che l'ha dato all'uomo del monte, e l'ha lottato sempre, senz'altro, di Antonio Bombolo, perché sono gli unici 3 apparati che riuscivano bene, a parte vabbè le 680, quindi che non sono riuscito a avere il sogno di avere, la pazienza, ma non me ne frega niente, me ne sono pigliato 2, non me ne ha fotti nulla, quindi va bene così, sono contento, guarda, sono veramente contento così, ho fatto 3 ricci. E questo, adesso se tu guardi su internet c'è questi 80, se guardi oggi c'è, mi sono perso questi 80 per cazzate, mi sono perso. Tu basta, guardi stasera, è di Venezia quel tipo, 680 euro. Caspite, la marca. Sì, è venuto 680. Fate guardare su Facebook, cioè, oggi c'è, è di nuovo, quindi non è riuscito a vendere, non so perché cosa non è riuscito a vendere, ma c'è. E io stavo per fare una fesseria. Meno male, non lo so, forse c'è stato Gesù Cristo e mi ha detto, dice no, ha fatto di tutto per non fare una cosa del genere, non lo so, o qualcun altro, ma non mi ha fatto mandare i soldi, capito? Il discorso è quello, io mi sono incazzato con mia sorella e con la mia ragazza per questo fatto qua, per questo acconto, 250 euro, mandateli subito. Il 26 del mese scorso, figurati. E poi l'ho pagato il 27, per esattezza. Siamo 250 euro, con mandare 250 e gli altri 150 mandateli l'uno. E invece sono stato bruciato. Tutto lì. Mi è capitato così, pazienza. D'ora in poi sono stato scaldato, mi sono arrangiato, va bene così, la prima cosa che ho trovato ho preso, forse ho fatto anche bene, la verità, ho fatto veramente bene a prendere due apparecchi, vabbè, ho speso 300 euro, non me ne fotte nulla, il resto me lo sono speso investiti. Quindi, mi sono risparmiato 80 euro, 80 euro mi sono mangiato io, va bene così. Io lo stesso, per Natale non mi ho preso niente, solo l'antenna nuova che devo ancora piazzare. Oggi mi sono preparato un tubo da 2,5 metri e praticamente un tubo da 50, da 3 mm, bello grosso. Gli ho fatto i buchi, la filettatura, ci ho messo due dadi e praticamente ci innesto quello che ho su, che invece è su nel tetto, è da 40, quindi ci entra, me lo blocco e quindi me ne salgo a 5 metri, capito? E ci metto l'antenna nuova, capito? La J-Pol della Smartech. Ah beh, fai bene. Se hai preso la J-Pol, va bene, va veramente bene. Gianni, ho visto che ha portato quella, la Game Master, e si è pigliato la, come si dice, la LEM, cioè, la LEM sembra che, quindi figurati, questo deve essere la Motova Turbo, si è pigliato la Super LEM, Motova Diari, la pagata mi sembra 50 euro, è andato bene, la verità, perché è andato bene, e esce veramente bene, molto meglio della, l'antenne fatte così, la verità. Quella è una signora antenna, capito? Adesso io questa sono curioso e non vedo l'ora di installarla. Oggi era una bella giornata, però avevo tante altre cose da fare, giusto stasera ho avuto tempo e sono sceso giù a prepararmi la prolunga del tubo che ho, così lo infilo dentro, e ieri invece sono salito sul tetto, ho messo un'altra zanca perché ce n'erano due ed erano a 1,50 praticamente, e quindi ne ho messo una e mezzo, capito, a più o meno 75, capito, fissata, messo il cemento, presa rapida, eccetera, e così piazzo il tubo grosso, poi salgo sul tettuccio, infilo l'altro e poi alla fine ci collego l'antenna. Almeno sei più tranquillo, almeno dormi sogni tranquilli. Hai fatto bene, hai fatto veramente bene. Adesso quel lavoro che stai facendo tu lo farò io, però non lo faccio adesso, io lo faccio in primavera, in pratica. Sono già d'accordo con un amico mio, piazziamo le zanche, quelle con due tasselli, hai capito? Ma un tasselli in ferro, tramite i tasselli, quelli come si deve, uno ha fatto una all'altra fare in modo che il palo del malgraffemo non si muove più. Anche perché gli ho detto io, sto palo di notte, il palo è quello che gli ho detto, i 3 metri, anzi doveva mettere 6 metri la verità di palo. E gli ho detto guarda, qua tu si metti, non ci passa, all'interno del palazzo, quindi a un certo punto l'unica cosa era una corda, sollevare si mette di palo, ma se mette di palo dobbiamo sollevare, ha detto la Giulia, ha detto la piano, ha detto la terrazione di mia madre, vogliono tirarti, ho detto non è così facile, ho detto come pensi tu. Esano, ho detto, più ho detto c'è l'antenna, più ho detto tu, gli ho detto, quando sono ballo sopra, tutto. Noi siamo morti tutti e due, gli ho detto. E tu ce l'hai, diciamo, piuttosto bassa, capito? Però sei in una buona posizione lì, una zona alta di Sassari, per cui arrivi dappertutto. Io all'aeroporto ti sento tranquillamente, tutto il tragitto, capito? Tutto il tragitto, le radio forti le sento tutte io, dall'aeroporto sino a Sassari. Quello sì, vabbè, anche conto tuo, più che altro è sistemati l'antenna della macchina. Perché se tu fai il foro lì davanti, hai capito? Migliora la ricezione e anche la trasmissione, ma solo l'altro. Perché non è che c'è tutto questo della segnale, la verità. È come se tu fossi trasmettendo, cosa ti posso dire, con un pezzo di lamierami, in pratica adesso. Perché la magnetica non è magnetica, fisicamente si chiama una massa fisica, non è che sia una massa vera e propria, capito? Eh sì, lo so che sei penalizzato rispetto a avere la basetta piazzata sulla carrozzeria dove fa massa bene, capito? Sì, solo che anche quello è una cosa che farò appena io penso a primavera, che c'è tempo buono, perché adesso ho paura con la pioggia eccetera a toccare queste cose, invece lo fai verso primavera e penso che va meglio, capito? Poi voglio mettere una tipologia di basetta sulla macchina dove puoi cambiare tipologia di antenna, quella corta, quella lunga, capito? Metti la vite, quella farfallina, capito? E vai. No, secondo me ti conviene metterci una Turbo 2001 di lì. E se non ho dama, basta un'antenna unica e va benissimo, perché io ce l'ho la Turbo 2001, è totalmente diversa da quell'antenna che c'hai tu. Esce molto molto più forte come tipo di antenna. Adesso vabbè, non c'ho, quando trovo quell'amico mio che gli ho passato con la Turbo 2001, me la faccio vedere, ti chiamo e te la presto e poi vediamo la differenza che c'è tra quella e l'altra. Tu fai altro che togliere quella che c'è tu e ci metti l'altra, la Turbo 2001, tu vedrai che c'è totalmente un altro guadagno, te lo dico io, di segnale, perché la Turbo 2001 è una cosa allucinante come antenna, molto molto superiore come guadagno in confronto a quella che c'hai tu. Sì, beh, quello è anche più lunga, capito? Quella che c'ho io è un'antenna corta in macchina, ma io l'ho messa corta per problemi, a volte vai a fare la spesa, scendi nei parcheggi e già a volte ti tocca anche quella se non la inclini, figurati quella più alta, capito? Io è proprio per quel motivo, poi a volte sta con la base magnetica, la butto dentro il portabagagli, capito? Invece quella lunga è più difficile da... E l'unica cosa è infatti piazzare la basetta fissa sulla macchina, sulla capota, togliere la base magnetica e al limite quando devi andare in posti alti, bassi, cioè la puoi sostituire, capito, mettendone una più corta, quando invece hai la possibilità di stare all'aperto, viaggiare eccetera, ti metti la turbo, capito, allora sì, allora già viaggia bene. Sto succedendo, c'ho la Turbo 2001, adesso, vabbè, lui non lo sta neanche usando, la verità, in macchina, quindi me la faccio dare e ti faccio fare la prova a caso con quell'antenna lì. Vediamo la differenza che c'è da una all'altra come antenna. Scendi con quella che tiro io e vediamo la differenza che c'è. sveglia, ma c'era anche Luca prima, forse ha chiuso, si è dormito, non lo so, ci sei ancora Luca? Sì, mi sto ascoltando, ascoltando questo ragazzo che sta dicendo le barzellette. Ah ok, guardando la TV, io aspettando a fare ora, ancora presto per i giovani, capito? Quando iniziano a ballare sono le 11:30. Sì, fai una cosa nell'altra, vai, si fa quasi mezzanotte rientrare a casa. Se gli basta a mezzanotte, ma poi io me ne vado a nanna, già l'aspetta mia moglie al limite. Ma vai così tardi, fanno le prove così tardi? Non ne ho la più pallida idea, praticamente è il ballo del liceo e lo fanno su in via Milano alla discoteca che c'è, capito? E vanno solo gli studenti e studentesse della scuola, capito? Ma cioè c'è tutto sto controllo, sì, vaccinati. Sì, li fanno entrare solo quelli che hanno il green pass, la mascherina, insomma, una rottura di balle. Casino, per carità, non si capisce più niente. Siamo arrivati, cioè, nel 2020 siamo così, no? Nel 2020, 2019, quasi 2 anni siamo, a marzo mi sa che facciamo 2 anni pieni di questa maledizione che ci è toccata. Ma basta contare tutti i morti che ci sono stati, bello casino. Vai avanti Antonello. Ehi, qua sono. E purtroppo è così, non ci possiamo fare proprio niente. Tutti i morti che ci sono stati, quelli ci riteniamo, purtroppo. Speriamo con questa terza dose che ci vogliono fare, che riusciamo insomma a vedere un po' di luce, quando sembra che ne stiamo per uscire di nuovo aumentano i contagi, no, se continuiamo così quando finirà questa cosa? Purtroppo è così, ci dobbiamo tenere così, il discorso è quello. La colpa anche la vostra. Sì, io ho la terza dose da fare in via Marghinotti quando era gennaio, il 10 gennaio, sì, il 10. Lo stesso giorno, cioè dalle 13 alle 14 la terza dose, sempre la mattina, devo andare prima al comune a farmi la carta d'identità nuova, che anche lì ho l'appuntamento, ormai è tutto appuntamenti. Di fronte a casa mia è il loop, se tu arrivi il giorno ti gira le spalle e vedi le mie antenne. Se mi ricordo già ti do un'occhiata, è perché praticamente c'è l'ingresso da via Marghinotti e poi ti fanno uscire però da via Grazia dell'Edda, mi sembra. Si conferma, ingresso da via Marghinotti e l'uscita da via Grazia dell'Edda, esatto. Sì, perché l'altra volta sono andato per accompagnare una persona e poi dice guarda che sono uscita, io l'aspettavo là, e dice dove sei, in via Grazia dell'Edda, ha detto allora aspettami lì che faccio il giro, capito? Io non sapevo che si uscisse dall'altra parte, capito? Però già vicino a casa, praticamente da dove abito io qua esco, faccio la mia via, ne esco in via degli Astronauti, faccio il Ponte Nuovo, scendo e sono lì, sono arrivato. E io invece a proposito sono arrivato. Tu la devi fare la terza dose, Luca? Sì, il 3 gennaio ce l'ho. No, fai prima di me. Allora, il 3 gennaio, aspetta, me l'ho spento il telefono adesso. Sì, comunque il 3 gennaio sono stacco, io durante la notte non lo lascio caricare perché è pericoloso, non sa chi piglia fuoco. Il mio è sempre acceso, perché se lo spengo non mi suona la sveglia, capito? Quindi io mi devo addormentare col tempo. Adesso l'ho messo in carica anch'io, perché poi lo scollego, me lo metto sul comodino e c'è la sveglia impostata. Ah, tua figlia lo dà il telefono tuo e te lo scarica così? No, lei ha il suo telefono, però siccome i giovani lo sai come sono, stanno sempre col telefonino acceso in mano, messaggiando, no? Quindi si scaricano la batteria, ogni 2 ore sono con la batteria scarica. Allora gli avevo preso uno di quei, come si chiamano, power bank, no? E addirittura con questo power bank sono riuscito a far partire un Apollo, capito? tipo una Polo a benzina, un 1200 mi pare che fosse, perché cioè, si possono mettere pure i cavetti, capito, per l'accensione d'emergenza alle macchine, quindi potente potente, ma lei pure questo power bank riesce a scaricare questi fili? Ma power bank è un avviatore, quello che ti fa partire la macchina. No, questo è proprio un power bank piccolino, praticamente quanto il telefono. C'ha l'uscita per i cavi della batteria, c'ha i due morsettini, no, che si attaccano alla batteria, dopodiché devi premere un pulsante che c'è, auto, versione auto, e dà la scossa per far partire la macchina, però macchine sino a 1200-1300 di cilindrata, non di più. Se un motore più grosso non ce la fa. Ah, ecco, cavolo. Sì, tutto inventano, pur di fare soldi. Pur di far soldi, vabbè. Avanti, pompo. Via, sono il baracchino e il bobolino, come sto uscendo? Bene o male? Ma di chi è questa baracchino? Di Antonio? Via, di Antonio, bombo, sì. Il suo. E ammazza, sei troppo amplificato. Addirittura. Adesso via. Sono troppo amplificato con questo baracchino qua. Però Carlo. Sì, la radio è, diciamo, l'altra era perfetta, capito? Questa invece rimane più compressa, capito? E meno chiara, però già si capisce comunque. Meno amplificata, diciamo. 1, 2, 3, 4. Guarda un pochettino così. Come va, meglio o peggio? Più o meno, non ha cambiato molto, eh. Ok, questo è il baracchino di bombola, di Antonio Bombola. Sono diminuito adesso la potenza del coso, dell'amplificazione, ma meglio o peggio? No, il segnale tuo è sempre buono, da qua siamo anche vicini, capito, in linea d'aria. La radio, l'altra che stavi usando prima, era perfetta, bella, chiara. Questa ha un po' di, capito, di voce metallica, un po' alla fine compressa, capito? Ben amplificata, perché altro, non è compressa. Guarda, diminuito ancora, 1, 2, 3, 4, guarda un po', va meglio. Così si è abbassato, eh? Così ti sei abbassato anche di radio. Sollevala un po'. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puoi lasciarla così. Ok, là, vabbè. Siccome devo provarla, perché da lui diceva fatto c'è un difetto, mi ha detto, dice che saliva di... che ne va a segnare a zero e roba del genere, capito? Di potenza. Invece visto che qua sta andando bene, io ho collegato con l'alimentatore di quelli da 4 ampere, figurati, non è che sia quello da quello solito che usavo io, quindi però sta andando, quindi a posto là, a quanto sembra. Sì, che sta andando, già va bene la radio, a meno che no, il difetto non lo fa quando la tieni troppo accesa, che magari è scalda e succede qualcosa allora. Se l'hai accesa da poco, magari per vedere il difetto la devi usare per un po' di tempo, capito? Vedere se scaldando poi ti fa questi problemi. E vabbè, lui faceva più che altro col lineare, a volte, capito? Quando vai in pratica di input allineare più di 15, in automatico si crea una specie di troppo pilotaggio, capito? Va in protezione, e quindi i finali, una volta che scaldano, vanno in tilt. Allora questo apparecchio qua, no? 87, scende, tende a scendere, capito? Sparisce di watt, dopo che raffredda, lui parte e torna, il discorso è quello lì. È fatto così questo baracchino qua, purtroppo. E, cioè, i finali sono quelli lì, li avevo cambiati io, li avevo messo 1307, però fanno quell'effetto. Allora, adesso, siccome sono liscio, aspetta un secondo che io ricollego lineare, così lo provo con lineare, 2 minuti. Ok, adesso è collegato con lineare. Aspetta che scendo di qua. due, sei, quattro minuti, cinque, non voglio che so. Antonio, che mi ero spostato un attimo. Sono qua, no, stavo attaccando il lineale più che altro. Sono sceso di volte per farlo scaldare, in modo da poterlo pilotare, così vediamo se difetta. Perché quando piloti più di 15, si ritorna in pratica e vado indietro, capito? E ti crea problemi. E quindi adesso vediamo se sia l'unica cosa. Adesso sta andando bene, capito? E evidentemente se gli dai troppi watt, magari la radio, magari alcune componenti non supportano tutti quei watt, tipo i finali, no? E ti rimanda in tilt. Infatti questo sto pensando anch'io, è una bella protezione, perché una volta me l'avevo fatto con il lineale che c'ho qua sotto, quello da 500 me l'avevo fatto una volta. Adesso vediamo un pochettino se fa lo stesso identico difetto. Eccolo qua, aspetta un attimo. Adesso la radio si è abbassata, la radio bassa, cioè, il segnale è sempre buono, qua c'è un fondo scala, però come hai parlato si è abbassata la radio. Ancora si è abbassata la radio, 1, 3, 4, 5, 6, guarda qua. Ora, c'ho dei generativi, passo da 80 a 60 watt. Si sente però che c'è qualcosa sotto adesso. Ti aspetto un attimo. Allora, aspetta. 80, scendiamo. Eccolo qua. Adesso dovrebbe essere a posto. Perché cazzo fischi? Adesso va bene. Ok, pilotaggio. Aspetta un attimo, stacco. Cazzo, 2,5 watt, non può essere. 2 watt di picchi positivi, quasi 3. Ora. Così con 5 watt come sto uscendo? Da qua, essendo troppo vicini, non è che ti posso dare un riscontro, cioè con 5 watt esci bene comunque, capito? Sono più che sufficienti per un collegamento del genere. Quello magari va meglio con la lunga distanza, capito, a vedere la differenza, perché da così vicino è impercettibile, perché il segnale tuo mi arriva sempre fondo scala, sia che esci con 5 watt che quando esci con 50 o 100, capito, sempre fondo scala mi arrivi qua. La radio cambia secondo se c'è il microfono amplificato. Quella che hai usato prima era perfetta, questa la radio è un po' compressa, capito, però già si sente chiaramente, niente di preoccupante, capito.